Il tema dell'elezione è uno di quegli argomenti dei quali gli uomini hanno fatto una pietra di scandalo. Eppure, per i primi cristiani giudei, il tema dell'elezione non era per nulla controverso. I primi cristiani avevano sì delle difficoltà di vario genere, difficoltà morali e anche dottrinali, quali la circoncisione e il mangiar carne, ma che l'argomento dell'elezione fosse un motivo di disaccordo teologico, non ne troviamo traccia. Eppure, dopo 2000 anni, parlare di elezione, come di predestinazione, spesso diventa motivo di imbarazzo. Questo dato di fatto però non deve essere un motivo per non parlarne. Anzi, se il colloquio è la soluzione per i rapporti con il prossimo, esporre il proprio punto di vista in merito all'elezione è certamente un contributo per una maggior comprensione della volontà di Dio. Diciamo subito che il termine elezione è molto comune nella parola di Dio, e come vedremo esso è applicato nelle più svariate circostanze e alle persone più diverse, perciò è opportuno leggere alcuni brani della parola di Dio nei quali troviamo la parola elezione. Efesini 1:1-6, Paolo, apostolo di Gesù Cristo per la volontà di Dio, ai santi che sono in Elè. Efeso e fedeli in Cristo Gesù, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto sia Dio, Padre del Signor nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati come Suoi figli per mezzo di Gesù Cristo secondo il beneplacito della Sua volontà, a lode della gloria della Sua grazia, mediante la quale Egli ci ha grandemente favoriti nell'amato Suo Figlio. 1 Pietro 1:1-2 Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che risiedono come stranieri, dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia, eletti secondo la preordinazione di Dio Padre mediante la santificazione dello Spirito, per ubbidire e per essere aspersi col sangue di Gesù Cristo, grazia e pace vi siano moltiplicate. Colossesi 3:12 Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletti, di viscere, di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza. Poiché il termine elezione è usato frequentemente dagli scrittori del Nuovo Testamento, è più che importante comprendere bene il significato di questa parola per impiegarla correttamente, perché dalla sua comprensione e dal suo uso dipende la nostra interpretazione più o meno corretta di gran parte della parola di Dio. Il verbo eleggere è di origine greca ed è composta da un verbo propriamente inteso, lego uguale raccolgo, scelgo, e da una preposizione, ekappa uguale da, fuori da, via da. Insieme danno l'idea dello scegliere, tirar fuori qualcosa o qualcuno da un gruppo, da una collettività. Fin qui il termine non reca grandi problemi, fino a quando esso non trova applicazione in merito alla salvezza o alla perdizione dell'uomo. Quando leggiamo che i credenti in Cristo sono stati eletti prima della fondazione del mondo, alcuni comprendono che, tra tutti gli uomini perduti, Dio ne ha scelti alcuni a salvezza. La confessione elvetica posteriore, citata anche da Charles Haddon Spurgeon, si esprime così: Dio da ogni eternità ha predestinato o eletto liberamente, e per la sua pura grazia, senza alcuna considerazione degli uomini santi che egli vuole salvare in Gesù Cristo, secondo quanto afferma l'Apostolo, siccome in lui ci è eletti prima della fondazione del mondo. Risulta evidente che chi crede ad una elezione o scelta a salvezza solo per alcuni, crede anche che predestinazione ed elezione sono sinonimi. Volendo anche venire incontro a chi la pensa, in questo modo, per correttezza di linguaggio, non sarebbe possibile considerare sinonimi i termini predestinazione ed elezione. Predestinare significa destinare in anticipo, prestabilire qualcosa molto tempo prima che avvenga. Eleggere invece ha il significato di scegliere o preferire, e questo si distingue molto dal predestinare. Una cosa eletta o scelta non è stata necessariamente predestinata. Se io ho una gattina che mi partorisce 3 cuccioli e, in seguito, decido di regalarne 2, non per questo è necessario che io abbia già scelto in anticipo o predestinato chi dei 3 regalare. La mia scelta è stata dettata da vari fattori, quali la bellezza o simpatia, e non da un atto prestabilito. Se invece decido in anticipo, cioè predestino di regalare due gattini, è evidente che ho fatto una scelta. Cioè ho eletto, ma non ho predestinato per il fatto di aver scelto, ma ho scelto come conseguenza di aver predestinato. Se non diamo ad ogni termine il suo significato peculiare, possiamo arrivare a dire che sono caduto perché mi sono fatto male, e non che mi sono fatto male perché sono caduto. Elezione e predestinazione hanno qualcosa in comune, ma non è possibile ritenerli sinonimi. Perciò, parliamo dell'elezione nel suo stretto termine di scelta. Nell'ottica calvinista conferma questa tesi anche Sinclair B. Ferguson, dicendo: spesso i termini predestinazione ed elezione vengono usati come se fossero sinonimi. In effetti, pur riferendosi entrambi alla stessa dottrina, essi comunicano concetti leggermente diversi. Eleggere significa fare una scelta. Predestinare enfatizza lo scopo di quella scelta. Atti 4:28, Romani 8:28-29, 1 Corinzi 2:7, Efesini 1:5-11. In breve, l'elezione esprime il fatto che Dio ha scelto il suo popolo. La predestinazione, invece, sottolinea che il destino di questo è stabilito divinamente. La vita cristiana, passaggio 2001. Proprio perché il verbo eleggere è molto comune nella parola di Dio, troviamo la sua applicazione ovunque. Nei Vangeli leggiamo che Gesù elegge dei discepoli, Luca 6:13, che Maria elegge la parte migliore, Luca 10:42, che gli invitati elessero i primi posti, Luca 14:7. Nel libro degli Atti leggiamo che Pietro fu eletto fra i 12 discepoli per portare l'Evangelo ai non giudei, Atti 15:7, e che gli apostoli e gli anziani con tutta la chiesa di Gerusalemme elessero Giuda e Sila, perché andassero con Paolo e Barnaba, Atti 15:22. Gli stessi angeli sono eletti, 1 Timoteo 5:21. Infine, Giacomo, il fratellastro di Gesù, riconosce che Dio ha eletto i poveri del mondo perché siano ricchi in fede ed eredi del regno. Proprio perché il termine eleggere è così comune, Gesù stesso viene definito l'eletto, Luca 9:33 e 23:35, come pure il re Davide, Mosè, Rufo, Pietro, Paolo, Salmi 89:3. Nulla di particolare, quindi, se la parola eleggere è pure applicata ai credenti i quali sono stati eletti prima della fondazione del mondo. Con questa espressione Paolo rivelava ai suoi lettori, che erano stati scelti prima della fondazione del mondo, per far parte della Chiesa fra i credenti di ogni epoca. La stessa parola Chiesa, in greco uguale ecclesia, ha il significato di chiamati fuori, e questo può significare fuori dal mondo. Ma poiché le parole bibliche hanno varie applicazioni, si può essere scelti dal mondo, come si può essere eletti o scelti tra i credenti di ogni epoca per una posizione o posto speciale. Infatti, non tutti i salvati faranno parte della Chiesa, ma solo i redenti, dalla Pentecoste fino al rapimento della Chiesa. Se tutti i salvati facessero parte della Chiesa, quando la Chiesa verrà rapita, a chi apparterranno coloro che saranno salvati dopo il rapimento di essa? Eleggere tra gli eletti è un metodo che l'Eterno Dio ha già usato. Tra i popoli l'Eterno elesse Israele, tra le 12 tribù l'Eterno elesse la tribù di Levi perché portasse l'arca del patto per stare davanti all'Eterno, per servirlo, per dare la benedizione nel suo nome, perché non avesse parte di eredità con i suoi fratelli. L'Eterno era la loro eredità, Deuteronomio 10:8-9. In un certo senso, i Leviti rappresentano la Chiesa, che ha un'eredità celeste e un sacerdozio regale davanti a Dio, 1 Pietro 2:9. Anche l'affermazione di Paolo in Timoteo che Dio è il salvatore di tutti gli uomini, principalmente dei credenti, mette in evidenza che Dio salva tutti coloro che credono in Lui in ogni epoca, ma prima di tutto coloro che appartengono alla Chiesa quando verranno rapiti, 1 Timoteo 4:10. Questa è l'elezione alla quale sono chiamati i credenti dalla resurrezione di Cristo in poi. L'elezione quindi non è riferita alla salvezza, né tantomeno alla perdizione dell'uomo, ma alla posizione del credente davanti a Dio. E solo quando applichiamo la parola elezione in un solo senso, cioè quello della salvezza o perdizione dell'uomo, che si arriva a conclusioni non conformi, alla totale rivelazione di Dio. Non abbiamo alcun testo che applichi la parola elezione alla salvezza dell'uomo, mentre il contesto in cui si trova questa parola ci autorizza a riepilogare quanto abbiamo considerato. La salvezza non è il risultato di un'elezione discriminata. Come leggiamo nella parabola delle nozze, Matteo 22,14, anche i perduti sono chiamati, cioè scelti, ma solo coloro che rispondono all'invito di Dio vengono definiti eletti. Essi occuperanno posizioni e compiti particolari, come i 144.000 che serviranno Dio giorno e notte nel suo tempio, Apocalisse 7,4-14. Essi sono i soli eletti in questo compito. In merito all'elezione, molti credenti trovano difficile comprendere i capitoli 9-11 della lettera ai Romani, dove si parla dell'elezione di Israele, ma una lettura attenta non fa altro che confermare quanto abbiamo considerato. Israele è il popolo eletto e, come tale, rimane, perché i doni e le vocazioni di Dio sono senza pentimento. La sua elezione è riferita al compito di essere testimone di un unico Dio, di servirlo e di lodarlo. Per il momento Dio, nella sua sovranità, come ha deciso di sceglierlo, ha pure deciso di metterlo da parte in attesa che il tempo degli stranieri si compia. Romani 11:25. In seguito, come affermano le profezie, Dio si servirà di questo popolo per compiere altri suoi disegni. È importante comprendere questo aspetto dell'elezione di Dio, perché essere eletti non comporta essere automaticamente al centro della volontà di Dio. Israele fu scelto, ma ora, come popolo, è stato messo da parte. Gesù elesse i 12 apostoli, ma uno di questi andò in perdizione. Matteo 26:24. Dio scelse Mosè perché andasse dal Faraone, in seguito cercò di farlo morire perché non aveva circonciso suo figlio. Esodo 4:24-26. I non giudei sono stati innestati nelle promesse fatte ad Israele, ma ne saranno anche recisi se non persevereranno nella fedeltà. Romani 11:22. Così, un credente in Cristo è un eletto prima della fondazione del mondo, ma questo non comporta che automaticamente avrà certe benedizioni. Più volte Gesù ha detto: a chi vince io darò. Apocalisse 2:7, 17, 26, 3 e 21. Tutti i cristiani faranno parte del regno di Cristo, ma non tutti regneranno, 2 Timoteo 2:12. Tutti saranno salvati, ma non tutti avranno lo stesso premio, 1 Corinzi 3:8. Mentre vi è una elezione a salvezza incondizionata e senza favoritismi, non vi è una conseguenza dell'elezione garantita. L'Apostolo Paolo ricordò ai credenti di Corinto che gli israeliti furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare. Tutti furono battezzati per Mosè nella nuvola e nel mare, tutti mangiarono il medesimo cibo spirituale e tutti bevvero la medesima bevanda spirituale, ma Dio non gradì la maggior parte di loro. Infatti furono abbattuti nel deserto. Il popolo di Israele fu eletto per ottenere grandi benedizioni, ma quasi la totalità di loro non ottennero i risultati della loro elezione. Così è dei credenti. Essi sono in Cristo eletti prima della fondazione del mondo affinché fossero santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Una elezione che non fa nessun accenno alla salvezza dalla condanna eterna, ma presenta una grandissima responsabilità sintetizzata dall'Apostolo Pietro. Perciò, fratelli, sforzatevi sempre maggiormente di rendere sicura la vostra vocazione d'elezione. Perché facendo queste cose, cioè aggiungere alla fede la virtù, alla virtù la conoscenza, eccetera, non inciamperete mai. Tutti i salvati sono eletti, ma alcuni di questi si vergogneranno alla venuta di Cristo. 1 Giovanni 2,28. Tutti i salvati sono eletti, ma non tutti gli eletti sono e saranno salvati. Perché eleggere è un verbo che, come abbiamo visto, ha un significato con diverse sfaccettature. E quindi non può e non deve essere considerato in un unico senso. Aprile 2005. Ellero